con él, a ver. Palo e non palo. Vedi, vedi.

C'è Cuca Canale 10, c'è qualcuno all'ascolto? L'MB più 4 al K, come questa radio, Luca? Un bombo, perfetta, bella, bella veramente. Ok. Come mai ieri non ti ho sentito? Cos'è? In giro te ne sei andato? No, ieri sono arrivato a casa alle 7:30, mi sa, dai. Sono andato sì a farmi un giro verso Pratamona con il cane. Con i cani, dai, il mio e quello della 25. Sono rientrato alle 7:30 e poi mi sono messo a fare un telefono, dai. A smontare un telefono perché devo cambiare il connettore di ricarica. E infatti l'ho già smontata, solo già l'ho ordinato e aspettiamo quando arriva. Così se lo cambio. Beh, certo, fatto bene. No, ma la giornata già era abbastanza discreta per uscire, per farci una passeggiata, visto che siamo reclusi già da un bel po' di tempo, Gassettina, mannaggia la miseria, ma comunque sembra che stia arrivando il momento che possiamo di nuovo essere liberi, non del tutto, ma quasi. Ma io ti dico che ci vado con i piedi di piombo, non mi interessa, me ne sto a casa. Anch'io sempre quello, non è che vado a strafare, non ci mancherebbe altro. Poi quando esco con la mascherina e coi guanti, come prescrive il regolamento del governo, per cui ci andiamo sì con i piedi di piombo, perché non si scherza, non si scherza, Luca. Ma io, guarda, sono sincero, ieri sono andato a zona mare senza mascherina, ce l'avevo la mascherina, però non me li ho messo, perché tanto stavo distante dalla gente. Deve stare distante, è una questione di prudenza, non si sa mai, Luca, tu non lo sai le persone in che stato sono, puoi incontrare una persona che ha preso il virus e ti contagia, ma scherzando stiamo, no, bisogna stare molto attenti, gli auguro, capita, tu pensa che io non sono andato nemmeno a ritirarmi la pensione questo mese, proprio per evitare di stare vicino alla gente. Adesso al prossimo mese vado e me ne ritiro due mesi insieme. Ma tanto non disturbi, cosa stai lì tu con la portante, non lo disturbi, devi mettere il vatto sotto. Cos'è la portante? Sì. È da ieri che c'è sempre qualche imbecille che ha tentato di mettere il portante, c'era una rotta ieri, tutti quanti furti di segnale, e lui insisteva, questo imbecille, non lo so io, che cretino. Sì, sei allucinante, non ti basta proprio, non ti faccio nuda. No, non ho parole, veramente, gente stupida ce n'è, come ci sono sui web, ci sono anche qua a baracchino, anche nella vita reale, attenzione. Non ci sono dubbi, già lo sappiamo, come la gente. No, ma se poi è il caso diamo anche una piccola sterzatina, se necessario, ma se mi stai dicendo che non fa niente, allora va bene così. Manco un bello di gocca, manco un bello, se vuoi io ti faccio una registrazione e ti senti sotto, come non ti dà fastidio, si sente poco a poco, non dà fastidio. E già creba, credo un po' da baracchino. Dai che muro creba a lui, allora che crebbia subito. Oh, yeah. Non è possibile, capito? Non è possibile che ci debbano essere delle persone così imbecilli e ignoranti, capito? Ma cosa fanno questi nella vita? Vivono così cercando di disturbare gli altri, ma hanno preso buoni tra l'altro, perché sono dei miserabili questi. Come quelli delle chat, lo stesso, come si chiamano, si fanno forti dietro una tastiera, capito? Perché offendono e fanno. Non so se sei frequentatore di... non penso che sia un frequentatore di chat, o lo sei mai stato. Io sì, e sono leoni da tastiera, amico, quindi chiamati. Lo so. No, da ti ho visto qualche volta su Facebook, ma io non c'entro mai, assolutamente, non è una cosa che mi interessa, ho visto e considerato come funziona. Sì, ci sono anche le persone con cui si può dialogare, questo non c'è dubbio, però la maggior parte delle cose sono tutte cretinate che a me non mi interessano, in poche parole. Però rispetto le idee degli altri, ci mancherebbe altro, perché è così che deve essere. Ecco, si conferma, avanti. E io. Ciao Luca, ben ascoltato, ciao anche a Giulio, buongiorno, avanti Giulio. Ciao Franco, ben entrato. Sì, fra. Sto usando un microfono LMB+4 sul K+. La modulazione forse ti giunge un pochino diversa, non lo so, però mi hanno detto che va benissimo, addirittura meglio del 60. Sì, sì, è bella veramente. LMB+4, aspetta, è una bella radio, eh? Una bella radio ti fa. Sì, il K diciamo che, cioè l'MC60 diciamo che ti fa, è più piena, più compatta, mentre questa è più squillante. Ok, fra, sì, sono in compagnia di Luca. Vabbè, evidentemente questo microfono si adatta meglio alla mia voce, e che ne so. No, adesso ero così con la radio accesa e in attesa che entrasse qualcuno, si è affacciato Luca, che fra un po' te lo mando avanti, e stavo pensando di adattare l'M300, voglio fare il K con l'eco, così solo per provare, per passare il tempo, ma no, certamente per usarlo, anche perché a me l'eco non mi è mai andato a genio, fra. Sì, che ti puoi immaginare, siccome ho diversi spezzoni di tanti baracchini, e stavo guardando se ce n'era uno compatibile per poter attaccare l'eco al K. Avanti Luca. Sì, ciao Fra, buongiorno. Ehi K, buongiorno Luca. Tu sei in mezzo al QRM, eh? Ogni tanto ti perdo, però già quando rimane basso già riesco a tirarti fuori abbastanza bene. Non posso far nulla, l'unica cosa che posso fare è aumentare un po' la radio, non so, altro non posso. Watt sono quelli che sono, 20 watt. Ehi K, vabbè, dai, è anche la zona magari dove sei che sei un po' negativo da me perché mi arrivi basso e probabilmente non ci puoi fare niente, ma magari tirando su un po' più l'antenna, ma non, secondo come ce l'hai alta non vale neanche la pena. Avanti Giulio. Ok, beh, diciamo che Luca ha sempre intenzione di dare una piccola revisionata all'antenna, perché Luca esce da casa sua, esce che è una bomba, soprattutto col Typhoon, è una bomba con quel microfono, poi quando schiaccia una martellata sull'incudine, sembra mi agoi pure, proprio bello, una delle radio più belle che ci sono nella 27 secondo me qui a Sassari, per cui vabbè, diciamo che questione di antenna sempre, il QRM è sempre questione di antenna, perché con 20 watt a voglia se lo sentiresti bene, solo che l'antenna ormai ha i suoi anni e ha bisogno di una rinfrescatina, come suol dirsi, no? Fra, capito? È quello il problema. Avanti Fra. Prego. Capo. Diciamo che l'antenna è tutto sulla radio, se non è quella è inutile mettere la radio buona. Aspetta Riccardo. No, anche io sto uscendo con 20 watt, sto uscendo stamattina, a parte che è freddo ancora, però diciamo che man mano questo scalda tira sino a 60, tira, l'ho tarato così, l'ho tarato. Sì, comunque dai, quando la metterà a posto Luca, ma una volta ne avevo sentito se la prendeva nuova, così è Luca. No, anche la mia è nuova, fra. Avanti Black. Avanti Riccardo. Ok, sì, la ci sono io, buongiorno. Ciao Tony. Ok, ciao Tony. Sì, oh Riccardo, avvicinati il microfono alla bocca per sentirti meglio. Fin quando non ti arriva col microfono preamplificato, tu devi utilizzare il microfono vicinissimo alla bocca, magari di fianco, così sicuramente ti sentiamo meglio. Avanti Tonino col buongiorno. Giulio, Luca e Franco da Sorso, oltre a Riccardino. Ciao Giulio, ciao Riccardo, ciao Luca e poi da c'era Oscar. Sorso, come vi occupi? Sei un segnale 95, radio 1, sei basso del radio. Ciao Tonino Kawasaki, ben ascoltato. E adesso la radio com'è? 1, 2, 3, prova. Adesso è buona, penso è 5. Perché mi ruba un po' di radio. Buongiorno, buon inizio settimana per le reti dell'isolato. Capo. Sì, Tony, probabilmente è attaccato poco fa allora e ti ha rubato la radio. Chi è che chiama gli amici qua in canale 10? Avanti, buongiorno. Ok. E allora Giulio, che mi dici? A Farumacche? Aspetta, buongiorno, dai, non ho copiato il tuo nominativo perché c'è stata una sola modulazione. Comunque buongiorno da questa parte Luca. Coordinate Nord Sardegna, Sassari, avanti. Positivo, dai. Un salutone anche a te, comunque in compagnia di Giulio, Riccardino, Tonino Kawasaki e Franco, anche lui dalla Sardegna. E ti rimando a Giulio, avanti giù. Ok, ma si sta abbassando la propagazione. Attento amico dell'Italia, se ascolti Giulio da Sassari, K. Un attimo Giulio perché mi basso le cose. Ciao Giulio, buongiorno, se bene vita, l'espresso Giulio Salvatore sulla attento Catania, ascolti Torino Kawasaki, avanti. Sì, ti ascolto, scusa un attimo, c'era un'altra sovramodulazione. Un attimo, l'amico di Catania, ti ascolto molto ma molto bene. Santiago 9 con QSB e la radio 5 a bomba, per cui è ultima. No, ma c'è stato un altro amico qui da Sassari che ti ha fatto chiamata, che io ti rimando avanti, vediamo se lo ascolti. Mi hai copiato Catania? Attento Catania, ascolti sempre Sassari, Tonino Kawasaki. È andata via la propagazione, Tonino. Che sfiga. Che sfiga, vero? Hai ragione. Oh, Tony, ascolta, ti volevo dire, quando tu attacchi, arrivi con un segnalone qua, ma forte, 9.15, tranquillamente, pieno, però ti si abbassa la radio. Allora, secondo il mio consiglio, se posso permettermi, dovresti tu abbassare l'ingresso del baracchino, perché evidentemente ci sono troppi watt in entrata, perché quando lo stacchi la radio è buona, mentre invece quando attacchi il lineare quella radio si abbassa notevolmente. Mi sono spiegato come fa a entrare a Riccardino, che è in attesa da un bel po', dai, avanti Tony. Buona po'. Ecco, adesso ho attaccato, ho abbassato il mic key. Un attimino Riccardino, com'è adesso giù la voce? C'è la radio? La radio però è bassa, è sempre bassa diventa, Tony. E quello è il problema, che quando attacchi il linearetto, ti mangia la radio, ti mangia. Anche se si capisce, sia ben chiaro. Però è bassissima la radio. E adesso, guarda un po'. 1, 2, 3. Adesso è ultima, togli male. Futtendomi, sì, adesso è ultima. Va benissimo così, lascia così Tony che va benissimo. No Giulio, io ho messo la molettina, ne ho messo le cose. E Gendis che sta girando bene adesso. Avanti Riccardino. E a proposito dell'amico di Castagna, non dirlo a me che sfiga, che volevo collegarlo io. Buongiorno, buongiorno, io lo sento saturo, buongiorno. Tutti noi che siete. Morelli. Mamma mia, che gente mala che entrate. Tony, che gente mala che entrate per questo, mamma mia. Ciao Claudio. c'è un altro amico, forse Antonello, boh, l'altro non ho capito che è. Vai Claudio. Buongiorno, buongiorno, io sto rientrando adesso, ho fatto QRL e barbiere. Ciao Tony. Io vedo, c'è un piccolo incremento, ma la modulazione comunque un po' ce la porta via, non è perfetta perfetta, ma abbastanza comprensibile. Ok, grazie, ciao Fla. E l'altro se la vado a dare la Marcolino, così, confermi. E allora, il primo giorno di libertà, tutti i noghi al baracchino, gente, uscite, uscite! Tutti i gatti, pizzi di bisone, gente! Non si sta piovendo, dove vuoi andare? Pure a piovere è iniziato, per carità. No, io devo fare le poste, tabacchino al limite, poi più tardi Eurospin, Lidl, tutto. Oggi mi voglio, posso dirlo a parole mie, sbagasciare mi voglio. Vabbè, io ho lasciato un po' in ufficio, mi hanno fatto alcune cose, poi alle 11:30, alle 11 avevo appuntamento al barbiere, sono rientrato adesso. E boh, basta, finito. Ho caricato mia moglie, vai tu, perché anche lei all'una deve andare alla parrucchiera e poi deve andare a fare la spesa. Arrangetevi, io non mi muovo più di casa. KK. Fai bene, Claudio. No, che sto scherzando, ci mancherebbe altro. Claudio, prima di tutto la famiglia, la vuoi rubare anch'io? Ma già lo sai, non c'è bisogno che ti dica queste cose. C'è Franco anche da Sorso, avanti Franco. Ehi, capo. Ciao Marco, ben ascoltato, dai. Ciao anche a Claudio, ben ascoltato. Avanti Claudio. Buongiorno, buongiorno Fra, ben ascoltato anche a te. E io ce l'arrivo. Le cose che dovevo fare io le ho fatte, adesso basta, non agli più danno. Adesso mi spoglio, mi sto qua. C'è caldo, però sta più vicinando, con la pioggia leggera, cazzo, lo so col temporale dove va. Vabbè. Sto piovendo sta fra. Sì. Ha cominciato poco fa, ma non forte, però un po' di luce le sta facendo. Ma dimmi una cosa, ho sentito che sei andato al barbiere, ma perché oggi sono aperti? I cazzolani da Druvia oggi cosa tengono? Il turno di riposo. Sono tutti aperti e sono pieni. Tu fidati che il mio è aperto alle 9 e c'ha appuntamenti sino alle 9:30 stasera. Orario continuato. Capo, no, qua era aperto da venerdì, era aperto. Questi barbieri qua. Però il lunedì chiudono. Qua a Sassari sono tutti aperti fra. Tutti aperti e sono tutti pieni per appuntamento, capito? Quindi no, non c'è problema. Hanno cominciato oggi, anche i parrucchieri e parrucchiere, dai, i centri estetici, tutto aperto a Sassari, i bar, tutti aperti sono. Ho visto comunque i bar, perlomeno quelli vicino a casa, sono ben organizzati, tavolini distanziati, l'ingresso è a 3-3, vicino al bancone, il resto devi stare lontano, ti puoi sedere. La ripartenza potrebbe essere buona, bisogna avere un po' di intelligenza e stare attenti. Oh, Corix, altro da parte mia, ci sentiamo dopo. Ciao Tony. Ciao Tony, siamo qua comunque se poi credi. Bene, bene. Avanti Marco, buongiorno, non ti avevo ancora salutato, vai. Io naturalmente mi sono alzato tardi, ho fatto colazione tardi, adesso al limite prendo il giornale. Piccole cose, dai, ma proprio vicino a casa, perché se piove poi a piedi è un casino. Buongiorno a tutti. A quanto ho capito c'era propagazione, un pochino, dai. Vai Giulio. Sono anche io. Adesso ti mettiamo in ballo anche a te. Vai, balla Riccardì. La sentite? Sì, io l'ho sentito. Riccardo, ti ho detto da poc'anzi, vicino al microfono alla bocca, vicino, magari di fianco, metti il microfono di fianco vicino alla bocca, se no la radio è bassa. Avanti clap, Riccardo. Sì, scusa Riccardì, buongiorno, ben ascoltato. Sì, avvicinati un po' al microfono, in attesa che poi usi quello preamplificato, avvicinati un po' di più Riccardo, perché sennò la voce disperde e non si capisce niente, capito? Ciao, buongiorno, ben ascoltato. Ciao anche a Marco, insomma, ciao circolare a tutti, dai. Avanti Giulia. Cosa Ricca? io alludevo alla portantina. C'è una misera portantina in Santiago 7 che come parla chiunque, no? Però la sento sotto franco soprattutto. Sente questo tic tic tic tic come preme, come pigia, capito? Ma non fa niente, proprio niente fa. Pirata e poi anche abusivo. Eia, eia. Comunque, tu voi siete andati dal barbiere, a parte gli scherzi. Io invece ho la macchinetta, me la sono consumata nel corso degli anni oppure di usarla. No, no, beh, anch'io in quarantena li tenevo bassi con la macchinetta, ma avevo necessità di andare al barbiere per farmeli bene, no? E se no è un casino, vai. Non c'è problema. Ehi. Sia Misani, non sarà Nisi, quindi zio, Sarvegia, ne ho. Io sempre sono andato al barbiere. La macchinetta ce l'ho e l'ho usata in questi giorni che non si poteva uscire, i barbieri erano chiusi, non laggiù di Palo Zingaro. Però adesso avevo necessità di una bella sistemattina ad hoc dal barbiere. Va bene, ciao Natali, buongiorno anche a te, avanti. Oh, buongiorno a tutti, ben sentiti. Stavo guardandomi la licenza di SWL quando ancora abitavo in via Pietrovica, te lo ricordi? Scusa Natali? Quando ancora abitavo in via Pietrovica l'avevo fatta nell'86. E la mia è dell'82, quindi siamo lì. La mia è 821 Cagliari, fate un conto. Va bene, va bene. KK. Già va bene. Sto guardando un alimentatore. 40 amperi l'alimentatore. Va bene. Mi hanno dato un po' di cose, adesso le metto a posto. Avanti Giulio. Ok. Sì. No, il mio barbiere questa volta è stata mia figlia, mi ha tagliato il capello mia figlia. E mi sa che per tutto quest'anno non ci vado più il barbiere per tagliarmi questi quattro ciuffi che mi sono rimasti. Però, visto e considerato che ormai ce ne avevo lunghi, allora abbiamo messo mano alla chioma e me le ha tagliate mia figlia e andava a Roma a testa. Intanto mi sono rimasti quattro zuffi, che problemi ci sono? Assolutamente niente. Avanti Franco. Capo. No, oggi ascolto bassi un po' di gente, molto bassi. La sentite? A Marco, devi mettere un microfono più buono, devi mettere, sennò uno passa il QRM. E niente, a Riccardo invece sembra che abbia aumentato il segnale 7, però radio non ha, non c'ha neanche radio lui, non c'ha. L'unico che ascolta è a te Giulio e a Claudio. Avanti Claudio. K. Vabbè, c'è una portantina a Santiago 7, ma si deve solo vergognare a metterla, perché dato qua sei 9 più tu. No, vabbè. Caguccio Bibigliani. Sì, anch'io noto un po' i segnali più bassi rispetto agli altri giorni, soprattutto di Riccardo, ma anche forse di Marco, non lo so, vabbè. Avanti Riccardo. Riccardo? Sì, ci sono, stavo chiamando Fusaro per il microfono. Chiamalo, poi riprendi, ok? Poi ti richiamo, avanti Giulio. No, l'ho chiamato, ho già fatto. E cosa ti ha detto? Dico, si tenti, ma lo so come arriverà, ci vorranno mesi, una cosa del genere. Fra 6 mesi arriva. Un mese, ma i soldi non te li ha restituiti quindi? Per carità, dovrei aspettare tanto, dovrei aspettare parecchio per quel microfono, tranquillo, vai Giulio. Sì, suppongo proprio di sì, adesso lo fa aspettare un bel po' di tempo, l'errore, poi dice, ordiniamo da fuori, ma tutto sommato conviene veramente ordinare da fuori, guarda, perché non è possibile, io sono convinto se avesse richiesto un microfono da un negozio del continente e in un paio di giorni sarebbe arrivato, di sicuro, guarda, non ne sono più che convinto, perché non è possibile. Poi lo dimostra anche il fatto dell'antenna, che lui ha ordinato, visto in pochi giorni gli è arrivata. Dai due ultimi già la fusano l'antenna, tra 15 anni te la mandano, te la portano. Oh, lasciamo perdere, questi negozi di Sassari sono proprio allo sbando completo. Che vergogna, capita. Vabbè, dai. Avanti Marco. Marco si è girato dall'altra parte, stava dormendo, si è girato dall'altra parte. Ciao Natalino, avanti. Ciao Giù, buongiorno. Volevo sapere se mi sentiva almeno a me, Cassettino, anche io sono piccolino. Io già ti sento, anche se c'è la propagazione che disturba, devo essere sincero, disturba abbastanza, però già riesco a sentire, perché tu mi arrivi quasi 9 di segnale e dunque riesci proprio a passare al limite, però già capisco quello che dici. Va bene, facciamo girare, avanti Franco. Ecco, ciao Natalino, poco fa, scusa, non ti avevo salutato. No, qua arriva basso Natalino, non lo sento per niente proprio, specialmente quando parla qualcuno là fuori, proprio 000. Se no a volte non sento che sta parlando, ma non lo capisco. Avanti Natalino. Ciao Fra, purtroppo non posso fare niente per le ragioni che tu sai. Purtroppo devo avere questo apparecchio e boh. Che faccio da ponte, Fra? Natalino ha detto che purtroppo lui non può fare niente perché è costretto a usare l'apparecchio che sta usando e basta, nient'altro di più. Già lo sai, la storia già la sai anche tu. Per cui lui è diciamo un pochino penalizzato a riguardo. Va bene, avanti Cla. KK, vabbè dai, comunque già l'importante è ci ascoltiamo, non c'è problema. Ok, io ho finito tutte le prove, Giulio, il Turner l'ho messo sul il Polmar, il Turner più 2 e l'MB più 5 sull'Elbex. Abbiamo fatto le prove ieri sera con Massimiliano e quindi quei due microfoni sono per i baracchini. Qua ho rimesso il 60 e tutto a posto, le prove le abbiamo già sistemate. Avanti Marco. Oh Claudio. Dimmi. Mi ha detto che, visto che ci vorrà un po' per portarmelo, ha detto che per adesso mi potrebbe prestare il microfono, quello che gli ho riportato, finché non arriva l'altro. Va bene Ricca, va bene, è un buon sistema lo stesso. Fatti dare, vai, riprenditi quello e rimane il fatto che appena arriva, le dici, appena arriva il microfono nuovo, lei mi chiama, io vengo e le porto quello vecchio. Infatti penso di fare così perché sto cercando di avvicinarmi sempre la bocca al microfono. Fai così allora, vai con Babbo e ti fai dare quello lì, ok? Almeno ce l'hai, poi quando arriva quello nuovo lo restituisci quello. E poi lo rimette in vendita, vedrai. Se lo mette in vendita, se me lo dà a metà prezzo, ma a metà prezzo vuol dire 40 euro, glielo compro io, basta che lo dia a metà prezzo però, non che da 78 ne toglie 8 euro, no, si rumagna, me lo dà a metà prezzo, 40 euro, io glielo compro. Io, incredibile, va. Sì, infatti io preferisco ordinare da fuori direttamente, meno polemiche, poi non ti restituiscono i soldi. Sai che online ha il diritto di recesso, più che comprare nei negozi fisici, proprio perché a distanza non lo stai vedendo le visio, o l'apparato o il microfono, e quindi ti, se non sei soddisfatto fai l'RMA, te lo rimborsano. È certo che funziona così, ci mancherebbe altro, è proprio così. Va bene, avanti Fra. Vabbè, con un microfono amplificato sarebbe stato meglio quel ragazzo, sarebbe stato. Oh, a Franco la mette la portante? Adesso prima mi arrivava 2-3, adesso mi arriva 7, mi arrivo. Però c'ha poca radio. Fra, sto usando il microfono male, ma infatti Riccardi, vai con Babbo, prenditi quell'altro microfono e usi quello, capito? Poi glielo restituisci quando arriva l'altro, almeno ti sentono meglio. Vai Giulio. Ok, sì, è così che devi fare Ricca. Fai così, però diglielo chiaramente, guarda che questo qui non è definitivo, non me lo sto prendendo in maniera definitiva, perché io lo voglio nuovo, come si deve. Glielo dici chiaro e tondo, poi vai con tuo padre, non andare da solo. solo, mi non andare da solo, perché se no ti fregano. Per cui fai entrare tuo padre nel negozio, non entrare tu, no. Tu magari puoi anche rimanere nella macchina, perché io lo so, non c'è parcheggio e dunque è pericoloso per il vigile urbano, eccetera. Però fai parlare a tuo padre, che è la cosa migliore. Perché non va bene, si abusa, ragazzi, di un cliente che non è stato molto attento nel momento che ha comprato e gli vuoi vendere un microfono già vecchio, già usato, anche se in buone condizioni, però c'era quel problema e dunque era meglio che se l'avesse tenuto loro, se l'avessero tenuto loro, non che l'avessero venduto a quel prezzo soprattutto, tanto più che in continente costa 65 euro, perché l'ho visto anche ieri, nei negozi. Vabbè, comunque va bene ugualmente, dai, se è un anno nuovo va bene ugualmente. Avanti, Marco, sei rientrato? Ehi, conta la spedizione, almeno 7-8 euro, quando ne sono 9, se non 10. Però è il bello che online hai il diritto di recesso, cioè se ti arriva a casa e non ti piace il colore, non ti piace come esce, puoi fare il reso e ti rimborsano, mentre qua sono più azzeccati. Qui in locale fanno di tutto per non rimborsarti o per non cambiartelo quasi. Mi dispiace, ma così si chiude. Purtroppo la mentalità che hanno qua nell'isola è quella, capito? E allora tanto vale comprare online. E online hai proprio questo privilegio, proprio perché tu non lo stai toccando con mano quello che devi comprare, se non sei soddisfatto, basta anche che non ti piaccia. Non ti piace il colore, non ti piace come esce. Però te lo cambiano o rimborsano, capito? Online. E qui è strano. Comunque c'è sta portantina, 7,7, la mette sotto Giulio, ma cosa credi di fare? Ancora non l'ha capito che siamo tutti vicini qua. Chi è sto mentecatto? Chi è? Stamattina presto mi stava a telefonare, non c'era Luca anche. Vediamo se c'è ancora Luca, perché dovevo fare un lavoro al telefonino, ma forse ci sta ascoltando. Luca, ci sei? Un minimo 9:20. Quindi il problema tra me e te e Claudio non ce n'è, e neanche Giulio, perché io a Giulio gli arrivo di più del segnale suo. Un attimo di bianco per me, che mi sposto una seconda, arrivo subito. Ok, qua vediamo se c'è Luca, che è ancora all'ascolto, forse sta lavorando, sta aggiustando un telefonino, mi ha detto poc'anzi. Luca, ci sei? Luca? Impegnato col lavoro, dai, deve essere impegnato con il lavoro, perché abbiamo iniziato insieme io e lui, e poi è arrivato anche Franco, eccetera eccetera, ma mi aveva già preannunciato che dovrebbe aggiustare un telefonino, perciò sarà sicuramente impegnato nel lavoro. Va bene, avanti Franco da Sorso. Capo, bello Clap, bellissimo, perfetto. Giulio. Questo dovrebbe uscire bene. In quale radio l'hai abbinato? Cosa ti ha mandato il TAN? Perché mi sei allontanato, Claudio. Il TAN ti ha mandato, il TAN più 2. Capo, sì. E allora si è allontanato, già rientra là. Niente di particolare. Sì, e diciamo che abbiamo fatto un lavoretto in quel microfono ieri, perché aveva un problema, diciamo che lui l'ha provato inizialmente sul K, no? Usciva con un frastuono di bicchieri e di vetro che si toccavano insieme, eccetera eccetera, una gantilena vera. E poi abbiamo deciso, o meglio gli ho detto, fa una cosa, mettici una resistenza così da più o meno a 100 ohm di valore e vedrai che la cosa funziona. Così ha fatto, dopo averne provato un paio di resistenze, però quella più bassa, appunto quella marrone nero, è andata a proprio bene, è una radio straordinaria anche nel K, però quello è un microfono che lui voleva utilizzare nel DAC ad esempio, nei baracchini, poche parole, dai. E così avrà fatto, senz'altro, anche poc'anzi l'ha detto che quindi lo usava col baracchino, però devo dire che ha funzionato molto ma molto bene, anche se c'è stato qualcuno che diceva che era il problema del microfono, che era così e quella, e invece no, l'abbiamo fatto fare la modifica, Claudio ha saldato e tutto è andato bene alla grande. Va bene, avanti Riccardino. Sono rientrato. Vado avanti io, però penso forse di non prenderlo da Pusaro per adesso, perché poi se devo qualcosa da dire che l'ho usato e quindi adesso mi devo tenere quello, e quindi forse meglio se me ne prendo un altro, così io prendo anche un turner per me e uso quello per adesso e me lo prendo da Continente che mi arriva in pochi giorni. Ricca, non so se mi ascolti, lasciaglielo fare a lui quel carne, quel microfono lì, che è proprio come hai detto tu, e poi se succede qualcosa quello lì ti lascia quello vecchio e si tiene il nuovo, si tiene, ma va bene per adesso come stai uscendo. Ok, anch'io come ho detto penso di fare così, è meglio mi prendo un turner che è anche un microfono, così come ho detto ne ho uno in più, non fa male. Comunque già ti sento, non ti sento, arrivi 9:10 radio 5. Ehi cappa, ma tu ogni tanto manchi di radio, hai aumentato Claudio dagli altri noi. 15 segnale 7, però la radio a volte basta, a volte non ce n'è, non so come stai parlando al microfono, però che tipo di microfono stai usando. Ok, avanti Giulio. Ok, dai, è ritornato Claudio, avanti Claudio. Mi era sembrato che era ritornato Claudio. Va bene, sì, anche quello è vero, potrebbe trovare anche una scusa, sai, con la poca onestà di questi commercianti che ci sono a Sassari, o meglio di certi commercianti, è meglio non fidarsi troppo, anche quello è vero, per cui al limite ti compro un'altra cosa, non devo che ti dica, se non tu restituisci i soldi, che poi è obbligato a restituire i soldi, è obbligatissimo, perché la legge parla chiaro, se un oggetto non mi va nel giro di una decina di giorni, una cosa del genere, te lo posso restituire. Dunque lui l'ha fatto e dovrebbe restituire addirittura i soldi. Invece no, i soldi se li ha tenuti, maledetto. Invece se fosse stata una persona, un commerciante più onesto, avrebbe detto va bene, ti prendo, ti restituisco i soldi, magari te lo ordino, se vuoi aspettare poi vieni e te lo prendo di nuovo, un altro microfono. Invece no, li resti attenti, però si è pigliato un microfono a tenerselo lì in negozio. Gente disonesta, per me guarda, gente disonesta, io la penso così. Vai Marco. Sono rientrato. Eia, io adesso mi attrinzo, dai, perché faccio un paio di commissioni, ok? Ciao Claudio, Giulio, Franco, Natalino, Riccardo, credo di aver nominato tutti, dai. Luca l'ascolto, ci sentiamo stasera se capita, ok? Ciao a tutti, ciao. Oh Marco. Ehi. Non è che c'hai dei chiudi, no? Mi servono tre chiudi, mi servono per attaccare tre cose qua. Se ce li hai me li passi, tanto puoi andare dove cazzo vuoi adesso senza certificazione. Chiodi no, no, proprio chiodi no, tutto a tasselli ormai mettiamo qua, non usiamo manco più chiodi, vitti, coso, non ne ho. Ma con le vici viene male perché non attaccano quegli affari là, ci vuole il chiodo proprio. Anche perché qua è cantone pieno, qua quando mettiamo i chiodini si piegano sempre. Va bene, ciao a tutti, ciao. Sì, ciao, ciao. Mi tocca andare a piedi, D'altronde, Natalini, che mi va la bassigiana. Vabbè, peccato che non ci sono io nel mio locale, se no te l'avrei dato io, ma io non esco, ancora non esco. Avanti Claudio che sei rientrato. Sì, ho lasciato un attimo di bianco per vedere un po' questa portantina Rogera. Fra, questo è il turner più duro a tavolo, abbinato al Polmar 7000, ok? Tieni conto che però la modulazione l'abbiamo rifatta con... abbiamo praticamente abbassato l'impedenza della capsula perché era troppo alta, aveva troppi toni acuti. Adesso invece c'ha anche i medio-bassi e quindi va bene. Questo è il turner più duro a tavolo, la foto che ti ho mandato, Fra. Capo, sta uscendo bene, che questo sta uscendo molto molto bene, sta uscendo. Aspetta. Ah, guarda, ha cambiato anche la modulazione, ha cambiato. Meglio. Beh, ne avevo provate le mani, siamo stati dalle 10 fino all'1 e mezza con Giulio e Roberto facendo prove di resistenze per cercare di trovare quella sua, e grazie a Giulio mi ho messo una che mi ha consigliato lui, abbiamo fatto le prove, va bene, ma attenzione, siccome c'è il connettore a 8, io te lo faccio sentire col K ed è favolosa, piace a tutti. Chiaramente la timbrica è diversa, ma è molto bella, molto corposa, molto, molto calda come modulazione, capito, Fra? Mentre qua invece è attaccato sul Polmar, su un 23 canali base vintage che conosci, però gira molto molto bene, ok? Ha migliorato, ieri era troppo pungente. Una bella modulazione, cioè, è bello. Va bene, avanti Giulio. Ok, i soliti secondi per far entrare qualcuno eventualmente. Sì, ha una modulazione da campione del mondo. Col K ha una modulazione da campione del mondo. Col vintage altrettanto ottima, veramente ottima, è una meraviglia, dai. Diciamo che la modifica che è stata fatta è risultata proprio perfetta alla grande. Sì, perché quella capsula lì, ti voglio spiegare, aveva un'impedenza un po' troppo alta, di conseguenza quando lui parlava si sentiva, tu presente ce li hai, un vassoio ad esempio con tanti bicchieri uno affiancato all'altro, come cammini che si sbattono insieme, ecco, sembrava così, si sentiva un frastuono di bicchieri sotto. E tutto quello l'abbiamo eliminato proprio pensando di mettere questa resistenza per poter far abbassare l'impedenza della capsula. Tutto lì, Fra, è andata alla grande. Avanti, Natalino. Sì, Giù, dimmi. Dimmi tu, se ti ho lanciato, dimmi tu. Cosa ti dico? Oh, yeah. Sono al computer che stavo vedendo un circuito LC. Ah, il circuito LC, e cosa vuoi sapere del circuito LC? Dillo a me, che te li spiego io. No, non mi devi spiegare niente, lo stavo guardando. Ah, ok, vabbè, dai. Un giorno facciamo un questione anche improntato su quel particolare, Claudio, tu che sei all'ascolto. Ma quando troviamo il momento giusto, dai. In modo che nessuno si annoi con le nozioni o con il tutorial dell'elettronica. Va bene, Riccardino, avanti. Riccardino non c'è. Cosa ti volevo dire, Giù? Io invece stavo ascoltando, non sono entrato per niente in rigoroso silenzio e me l'ho ascoltato tutto il QSO.